sente il caldo un po' anche il nostro mixer. Esatto. Noi siamo belli che svegli nonostante gli impegni serali, però la tecnologia ogni tanto ci tradisce. Claudio Borgianni di Entroterre Festival presenta eventi per quanto riguarda un aspetto eterogeneo, musica e non solo, incontro, cultura, un'attenzione al territorio. Qua siamo in un territorio piacevolmente di confine, separato dal Reno, Cento e Pieve di Cento, tra Bologna e Ferrara, e conosciamo una... Sai che io ne avevo il sospetto? Mi pare di aver parlato con un musicista che appunto ha detto: guarda che c'è una tradizione tra Pieve di Cento e Cento, una tradizione chitarristica importante. Ricordo che dal 26 al 28 luglio, quindi è imminente. E ci puoi dire qualcosa di più di questo aspetto di tradizione per quanto riguarda un Django Reinhardt, Jazz Manouche? Io sono rimasto, sta da vedere che il Manouche è nato più vicino di quanto si possa immaginare. Ma in Emilia Romagna tante cose nascono più vicino di quello che sì, ci possiamo immaginare. Tra cui infatti tutta una tradizione, ma una storia molto bella che incrocia il jazz manouche alle mollette di plastica che tutti noi utilizziamo tutti i giorni per stendere i panni. Ah. In maniera molto curiosa ho scoperto che lì nacque un personaggio, Talma Caferri, che non solo ha inventato la chitarra manouche, che insomma ha suonato Django Reinhardt, ma ha innovato anche le ance per i sax, sul taglio dell'ancia per i sax. E altra innovazione che ha portato, oltre tante altre, è stata proprio la molletta di plastica che tutti noi utilizziamo quotidianamente. Allora, noi abbiamo un format, scusa se ti interrompo, che conduco, certo, con Alfredo Pasquali per quanto riguarda il jazz, no? Seguiamo il Torrione, tutti i jazz club, il Bologna Jazz Festival, e una volta, non ricordo, un musicista disse: ah, ma la tradizione gypsy, la tradizione manouche nel ferrarese vicino a Bologna, così ha avuto importanza proprio per queste evoluzioni. E noi tra di noi ci siamo guardate, abbiamo detto: sta da vedere che non abbiamo capito niente per quanto riguarda. E adesso ne ho conferma, anzi non vedo l'ora di dirlo ad Alfredo questo, perché è una conferma che per anni ci siamo chiesti, ma dai. E invece, merito di Maccaferri, cognome quanto mai centese, cioè nostrano, ecco. Esatto, sì, assolutamente. Quindi a quest'anno nasce questo proto festival, chiamiamolo così, un inizio di una 3 giorni in cui abbiamo 6 concerti e una masterclass, che si snoderanno tutti i giorni con un concerto a Pieve e un concerto a Cento, proprio per unire questi due territori che sono praticamente attaccati, divisi dal Reno, ma che condividono comunque tantissimo. Sì. Tanto più che, tra l'altro, sappiamo bene, se guardate la silhouette del comune di Bologna, della provincia, scusate, di Bologna, vedete che Cento è proprio una piccola, diciamo, smancatura, ecco, definiamola così in maniera primaria, fu donata per quanto riguarda lo Stato Pontificio, tutti i percorsi storici, ma in realtà Cento non è campanilismo, e ci mancherebbe, mantiene ancora lo 051 come prefisso telefonico, che è quello di Bologna. Esatto. Molto affascinante anche la storia tra Cento e Pieve di Cento. Com'è affascinante la storia di Mario Maccaferri? Mi dicevi anche della molletta per stendere il bucato. Esatto, sì, ha avuto successo e fortuna con un'impresa di costruzione di oggetti in plastica, ovviamente negli Stati Uniti, dove si era trasferito. Ma una storia molto affascinante quella di Maccaferri, rocambolesca, no? Affascinante, insomma, si racconta un'Italia con una grande propensione verso l'innovazione, verso... Anche comunque... una grande creatività. Assolutamente sì, e questa fa parte un po' del patrimonio che la regione ha. Sì. Un patrimonio che spesso è poco conosciuto, poco noto alle persone anche che ci abitano, e questo è il caso di tantissimi altri aspetti, altri pezzi di patrimonio che via via stiamo scoprendo, che magari sono conosciuti dall'altra parte del mondo, ma non qui. Sì, questa è veramente una delle cose che questi festival, Entroterra in particolare, può riportare all'attenzione di un pubblico curioso e attento. Si inizia questa sera, allora, ci puoi dire qualcosa di più, Claudio? Sì, questa sera iniziamo con un format a 6 gradi, che è una trasmissione di Rai Radio 3, sì. Che ne abbiamo trasposto dal vivo. Quindi iniziamo con questo 6 gradi che inizierà a 100 in Piazza dei Due con Luca Damiani che condurrà questa serata, questi 6 punti di separazione, sì, sul jazz manouche e sul territorio, e si concluderà poi alle 21.30 in Piazza Andrea Costa a Pieve di Cento. Quindi ogni sera un concerto che inizierà o a Pieve o a Cento si concluderà nell'altra piazza, in modo che anche il pubblico possa seguire questo gioco, superare quel ponte e andare dall'altra parte, nell'altro, certo, comune, bello, a seguire questa tradizione che ci è spartita tra queste due province. Certo, e aggiungo anche che per la giornata di sabato ci sarà motivo di condivisione attiva con il pubblico, c'è sempre, ma in questo caso proprio fisica, con il Gypsy Dancing Night, quindi anche il pubblico è invitato a questo ballo. Assolutamente, ma il pubblico è assolutamente invitato a tutti gli eventi, perché ogni giorno si scoprirà un pezzetto nuovo, un'esperienza, certo, nuova. Certo, e per quanto riguarda il sabato, ricordiamo che nel vivo del festival due originalissimi appuntamenti musicali, alle 19 a Pieve di Cento, per quanto riguarda la scatenatissima serata danzante con Gypsy Dancing Night. E possiamo mettere un po' di musica, appunto, di Django Reinhardt, che intervalla le nostre chiacchiere, e poi tra 2 minuti torniamo in diretta. Grazie Claudio, grazie. L'origine del jazz e quanti hanno contribuito a tutto ciò, dalla tradizione gypsy fino ad arrivare al klezmer, poi i migranti dall'Irlanda e anche una grande parte d'Italia con Lenny Tristano e tanti altri musicisti che hanno dato importanza a queste note di improvvisazione, quindi musica afroamericana ma non solo, e poi potrei andare avanti ad oltranza per quanto riguarda i ritmi dal Sud America. Insomma, veramente il jazz resta molto emotivo, di mistero, ma allo stesso tempo di grande fascinazione. Per quanto riguarda il protagonista, Jazz Manouche e Gypsy Jazz, che abbiamo ascoltato, Django Reinhardt, tra l'altro ricordiamo, lui sfortunatamente ha avuto un infortunio grave a una mano, tanto più che lui suonava in maniera particolare la chitarra proprio perché in seguito a gravi ustioni riportate alla mano destra doveva arrangiarsi e arrangiare in determinato modo queste note e, perché no, magari nella sfortuna è riuscito a dare un fascino e un valore aggiunto a questa capacità e a questo grande talento. Intanto, Claudio, ci sei? Sì, dopo sì, sono tutte qua. Queste mie omelie a proposito del jazz di Django Reinhardt, e vedo che tra i protagonisti c'è Tolga Düring, che è un chitarrista di grande talento nell'interpretazione delle sonorità appena ascoltate, ma vi sono anche altri musicisti e altre realtà di incontro. Dopo la Gypsy Dancing Night alle 21:30 in piazza Guercino a 100 fa da cornice a Accordi Disaccordi, progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Sì, poi domenica 28 si parte da 100 alle ore 19, Giardino dello Zan Andrea con Honolulu Swing. E sono tutti musicisti comunque che sto leggendo così a menadito e che ho contattato appunto per i programmi relativi al jazz nel format di Radio Città Fujiko Jazz Live. Ricchissimo panorama, Claudio? Sì, assolutamente, l'idea è quella proprio di costruire un, come dire, un punto che possa muoversi su tutte quelle che sono le sfumature, no? le possibilità di coniugazione di questo genere. Una cosa molto bella che prima dicevi, che volevo sottolineare e che si ritrova, è che la musica sostanzialmente è meticcia. Sì. E questa dimensione del meticciato, no? A volte chi arriva da alcuni generi musicali ambisce la purezza, no? Dello stile, la purezza. Invece il mondo musicale è proprio il meticcio, è l'invenzione, è dal fallimento e dal limite trovare, come dire, portare un'innovazione. Quindi in questi giorni è questo che vorremmo far respirare in questa costellazione di musicisti e di gruppi musicali anche molto eterogenei tra loro. Che si ritrovano con dei fili conduttori che portano la grande qualità e il gusto. Allora, per accedere a questa 3 giorni, modalità, alcune informazioni anche sull'aspetto logistico, Claudio? Certo, allora i concerti sono tutti gratuiti. È preferibile la prenotazione su Eventbrite, si può trovare il link sia su Eventbrite che su entroterrefestival.it, dove sono inseriti tutti gli eventi quest'anno all'interno, no, del grande cartellone di Entroterre Festival. Speriamo l'anno prossimo abbiano un proprio contesto autonomo. Basta la prenotazione, ma non vi scoraggiate, anche senza prenotazione potete venire direttamente lì e sicuramente ci sarà la possibilità di assistere al concerto. Io aggiungo che Pieve di 100 e 100 sono molto belle, se almeno esatto. Sapete la mia fascinazione per il territorio di pianura, ma in questo caso la storicità, l'architettura, le somiglianze e le divergenze che diventano parte fondamentale di incontro, poi con questa tradizione, grazie a un protagonista che alleggerà, che è Mario Maccaferri, questo Archimede, se vogliamo, dell'invenzione più immediata e quotidiana, fino a quell'artistica con un approfondimento reso concreto dall'ascolto per questo weekend tra 100 e Pieve per Entroterre Festival. Insomma, io direi che è un'occasione importante della quale ti ringraziamo tantissimo. Ho visto e ho letto che anche le istituzioni sono cariche di entusiasmo per tutto ciò. Quindi infatti è stato un bellissimo lavoro fatto in concerto con sia le istituzioni comunali, sia anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che ha sostenuto l'iniziativa, e c'era già una volontà di fondo di farlo. E quindi quando l'idea è stata proposta è partita, mi è arrivato l'input dalla scuola di liuteria del Cento Pievese. Raccolto questo input, è stato solo bisogno di fare un passaggio e la miccia è partita immediatamente. Si è accesa. Grande Mario Maccaferri che ho scoperto grazie a Entroterre, dico la verità, e mi ha affascinato tantissimo anche la storia relativa a tutto ciò. Io ti ringrazio, appuntamento per il festival che dà attenzione al territorio, ma oltretutto ai motivi di incontro culturali e artistici, Entroterre Festival, cultura e territori in festival. Claudio Borgianni con noi, scusa per gli inciampi tecnici, però abbiamo rimediato, dai, abbiamo rimediato. Grazie di cuore, bene. Una buona giornata e una buona estate. Ciao. E anche a te, e anche un saluto. Ciao. Così ho rientro in diretta al pelo per quanto riguarda questa proposta musicale e colonna sonora per il weekend imminente che inizia già da questa sera per quanto riguarda Entroterre Festival, che presenta gli eventi in anteprima del festival Maccaferri, chiamato proprio Festival Maccaferri, e della chitarra cento pievese. Importante programma completo e ovviamente la possibilità di reperire gli ingressi e prenotazione, ricordo ingresso gratuito sul nuovo sito del festival www.entroterrefestival.it. Ah, oramai sapete, non ne usciamo dal digitale, quindi almeno dove ci può essere d'ausilio lo citiamo. Ma mi sta tornando in mente che 4 anni fa, mi pare un jazz live di 4 o 5 anni fa, non ricordo con chi, si stava parlando delle origini nel ferrarese, ecco, nella provincia ferrarese, per quanto riguarda il manouche e il gypsy jazz. Ma come? Eravamo un po' straniti, io, Alfredo. E invece, vedi, poi la storia ha dato ragione con il Festival Maccaferri a quell'intervista che per diverso tempo abbiamo così, in maniera sospettosa, tra l'Ilare e il Faceto. Bene, quindi complimenti a Entroterre, a Pieve di Cento e a Cento, al Festival Maccaferri e alla chitarra Cento Pievese. Tra pochissimo la pubblicità, poi torniamo assieme per la presentazione di una trilogia, Archivio Z, La Montagna Incantata. Beh, ve ne parlerò con grande trasporto, eh. A tra poco. Stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. And